Ciao a tutti e bentrovati, questa è DIY Drama, io sono Francesco Toscani, conosciuto al grande pubblico come Tosco, e con me in presenza telematica c'è la sempre meravigliosa Sara Pacu. DIY Drama, drama perché vi presenteremo dei testi teatrali, e DIY, cioè do it yourself, perché dovrete immaginarvi voi la scenografia, le luci, i costumi, i personaggi, gli attori. Questa sera cercheremo con immenso sforzo di essere un po' meno cazzone del nostro solito, perché abbiamo deciso di provare a concentrarci su un tema tanto attuale quanto doloroso e delicato. Pacu, a te la parola. Esatto, oggi proviamo a essere seri. Perché mai, vi chiederete voi? Adesso faccio un attimo di spiega. Proveremo a essere seri perché questa settimana Wired ha pubblicato un'ottima inchiesta sul revenge porn, una pratica per cui su Telegram proliferano dei gruppi da oltre 50.000 membri in cui uomini danno fondo al loro testosterone passandosi foto nude di ex ragazze, figlie sconosciute e quant'altro. Oltre a creare disgusto in sé, fa paura che questo tipo di pratica non sia affatto sorprendente. Perlomeno io non sono sorpresa e sono sicura che qualsiasi persona che si identifica come donna, a sua volta, se lo aspettasse in qualche modo, perché banalmente questa è la nostra realtà. E fa schifo perché è l'ennesima emanazione di una cultura che una volta raggiunti i minimi diritti indispensabili per una determinata categoria umana poi si ritiene soddisfatta e va avanti per la sua strada. Quindi noi dobbiamo essere contente se a differenza degli anni 50 possiamo avere un effettivo ruolo nella società. Però non possiamo lamentarci se quando andiamo in discoteca degli sconosciuti ci toccano il culo, non possiamo lamentarci se dobbiamo sentirci terrorizzate quando torniamo a casa da sole di notte e se dobbiamo sbatterci il doppio per guadagnare rispetto sul posto di lavoro. Anzi, tra l'altro, se reclamiamo diventiamo lagnose e nazifemministe. Quindi, boom boom, tornando a noi, come diceva quell'adorabile piccoletto di Brecht e con lui gente tipo Strehler, il teatro ha il dovere di trasformare il mondo e stasera noi contribuiremo al dibattito. Avremo una serie di contenuti che si concentrano sul punto di vista femminile che snocciolano il problema con approcci diversi. Visto che accusare è giusto, ma è bene impostare un dialogo per poter andare oltre, più che un atto di denuncia, queste letture saranno una chiamata a prendersi le proprie responsabilità. Iniziamo con Aurora Spreafico in un monologo di Berkoff. Il testo che state per ascoltare è tratto da East, che è un lavoro di Berkoff di metà anni 70. E vi chiederete perché è un testo che ha praticamente 45 anni, un testo quindi che risale a un'epoca in cui i termini del dibattito erano diversi, le parole che si usavano erano diverse, il modo di immaginare la donna, la femminilità era completamente diverso. Perché anche se questo testo per certi versi può anche apparire datato, la verità è che questo testo riverbera di una rabbia incredibile, di una rabbia che lo eleva al di là del suo decennio di appartenenza, diventa universale e riverbera anche ai giorni nostri. Quello che state per ascoltare è il monologo di Sylve, da East di Stephen Merkoff, letto da una stellare Aurora Spreafico. Io qualche volta vorrei essere un maschio, perverso, sia nelle parole che nelle azioni. Starmene in ozio, una gamba all'aria e le chiavi della macchina che ti tirano l'uccello. vorrei lanciare occhiate alle belle pupe che passeggiano e inchiodarle con un lungo sguardo impertinente. Mano nei jeans, denti serrati e quella carne stradisponibile come un giocattolo tra le vostre cosce, davanti al quale noi ci genuflettiamo, ci inginocchiamo e con la quale voi ci conciate per le feste. Vorrei poter andare a donne, abbordare quelle puttane, immondizie il cui cuore si spezza quando lui le divora, poi le sputa fuori, le caccia via. No, non è giusto che se la spassino solo loro. Questi stronzi con la voce grossa e catarrosa e una dozzina di scopate la settimana. Bocche da cavernicoli che urlano, ruttano ubriachi di birra. Se osassi farlo io... Che ignobile bagascia! Esclamerebbero con le loro luride bocche. Per questo vorrei essere un maschio. Passeggiare su e giù con gli amici e fare piccole brevi guerre con un coltello arrugginito dagli schizzi di sangue e un vomitare di bestemmie. E non dover sempre smacchiare con olio di gomito e una buona dose di dash le impronte sulla sua spregevole libidine. Avere soltanto il mio uccello a cui pensare da tenere sotto controllo, la mia belva feroce, da beverare e nutrire di tanto in tanto, fottutissimo tanto. Immergere il mio lucignolo in qualsiasi luogo buio e caldo senza scrupoli. e gemiti d'amore. Possiederà forse egli la peste nella sua cancerosa beatitudine, regalandomela senza che gliene freghi un beneamato cazzo? Io mi sento come stritolata sotto la sua irsuta e ruvida mascella. È una macina semovente di lussuria col bastone duro. E io nient'altro che una pattumiera in cui scaricare i suoi eccessi e le sue gratificazioni. No, non questa sera. Questo è un giorno pericoloso, i tuoi girini potrebbero appiccare il fuoco al mio forno. Non lo farai, vero? Starai attento. No, non stasera. Ah, dunque tu non mi ami? Piagnucola lui funereo in chiave minore. Tu non mi vedrai mai più, perché tu devi sottomettere il tuo altare di lussuria rosa e pornografica alla mia carne eretta, rigonfia, paonazza. No, Miki, aspetta, solamente fino a domani. Ah, ma io domani potrei essere morto. La mia debole carne potrebbe essere sparsa per strada a brandelli, vittima di una guerra atomica tra le potenze che distribuiscono morte all'ingrosso e che ridurrebbe ad un liquame il tuo piccolo Miki. Ciò che un tempo era massa setosa di estasi in movimento, programmata per una sordida lussuria, ora giace in terra, piccolo e malinconico mucchietto di cenere. Chi potrà mai più rimettere insieme nei fianchi echeggianti, articolati con cuscinetti a sfera, spina dorsale e lingua tremolanti come una mantide religiosa? Quindi ascolta, egli aggiunge, cervello annacquato e succhi a schizzi. Afferra in tempo, prima che il tempo afferri te. Te dalla mano veloce e la bocca benedetta, bevitrice di succhi. E aggiunge, dammi tutto e subito, altrimenti lui potrebbe esplodere insieme alle mie palle. Cose simili possono accadere quando si sfidano gli angeli di una lacerante passione. E io potrei morire tra atroci sofferenze su questo divano di plastica e formica. Così apriti, strappati, spogliati, tira giù la lampo, straccia via. Calze impigliate intorno al ginocchio, scalcia le scarpe. Ai! Oh, ai! No, le mutande! La lampo fa male! Un tuffo dentro e fuori, dentro come una frusta, una visita breve, una tazza di tè calda e veloce, calda immersione che zampilla e risucchia alternata ad un rapido allo, una serie sconsiderata di oh e di ah, un fremere di e poi accaldato e avvampato lui abbassa bandiera, ama in arrivo la numero 4 e le mie lacrime, quali sacre reliquie di un giovane amore, tracciano sulle guance un sentiero mortale verso il paradiso, mentre lui stremato tossisce e fuma una cicca. Denti, sogghigni, chiusura di lampo. Ed io, distesa, guardo il futuro che appare sul soffitto come in un lampo. Lui si passa il pettine tra i capelli, le guance arrossate, irrorate di sangue. Ed io stesa lì, mucchio di ossa sazie, tette afflosciate, carni sgualcite, ricolma della sua porcheria che Dio solo sa che diavolo contiene. Cazzo, ma è per questo che io vorrei essere un maschio e campare senza la maledizione mensile e non dover fare parte della schiera di ragazze che bigodini in testa fremono davanti alla porta del cesso, ma che pisciamo forse più degli uomini. Non rompere i tacchi nelle fessure di qualche scala mobile o agitare le chiappe salendo le scale per il godimento della schifosa moltitudine che mi inserisce in fugaci fantasticherie erotiche dove mi assegnano il ruolo di regina di ogni dissolutezza e di ogni resa. Quanto vorrei essere un maschio che porta i pantaloni, che ha i pettorali invece delle tette e addominali, dorsali possenti, un'armatura di muscoli nodosi per sferzare col mio pugno rabbioso la dolente carne di quanti mi aggrediscono con parole offensive e osano gettare su di me sguardi furbastri e circospetti, trafiggerli con la paura e godere di una dozzina di scopate la settimana. Dormire sereno, come cocco di mamma. La colazione sospinta davanti. Che hai fatto a mamma tua, furfantello? Ti sei divertito ieri sera, eh? E te la sei tagliata la tua bella fetta di torta. Mentre sbrigati, Silvo, fa ritardi in ufficio al falloppone nel letto e chiede un'altra tazza di tè. Lui si crogiola nel suo letto. Mentre io, sulla metropolitana nell'ora di punta tra Mile End e Tottenham Court Road, devo subire le attenzioni di qualche schifosissima testa di cazzo, ripiena di forfora, con una moglie e tre marmocchi nati accidentalmente, che probabilmente lavora nell'ufficio contabilità. Quasi tutti i pervertiti lavorano là. Avete ascoltato East di Steven Berkoff, letto da Aurora Spreafico. Questo era un testo su una donna che cerca di calarsi nel punto di vista maschile e adesso avremo un testo scritto da un uomo che ha cercato di calarsi in un punto di vista femminile. Esattamente, ora ci spostiamo in un mondo fantastico e prima di tutto alzate il volume perché arriva Jasmine Monti, che è il fiore più fiore del mondo intero, ciao Jazz, e soprattutto continuate ad ascoltare perché tornerà anche in chiusura di puntata. Jasmine questa sera ci porta una lettura da Le Beatrici di Stefano Benni, che è una raccolta di 8 monologhi al femminile. Qui siamo in una favola che fa la magia tipica delle favole, cioè ci trasporta in un non tempo e non spazio, racconta una vicenda immaginaria, ma nel farlo veicola un messaggio universale. Quindi godetevela, rintracciate i legami con la nostra realtà e questa è Jasmine Monti nei panni di Madame Licantrope. Io sto alla finestra e l'aspetto. A volte c'è la nebbia e devo scrutare in quel grigio senza distanze. Mi sembra di vederla e invece è solo un fantasma, un riflesso del mio desiderio. A volte vedo nuvole dense e io ho paura che lei si impigli in quella foresta di vapori e tuoni e non riesca a raggiungermi. A volte, d'estate, sento già dal mattino la sua voce luminosa che mi chiama. E d'inverno non resisto. Quando è notte corro nella neve, le vado incontro, so che è là, oltre le cime aguzze degli alberi. Ma anche se sono dentro una stanza, mi basta una finestra socchiusa, un tremore latteo sul pavimento, un filo di luce dalla porta e io so che è arrivata. E la mia vita povera come quella di tutti, all'improvviso si incendia di dolorosa, meravigliosa passione e il mio cuore batte forte perché lei è tornata. La luna! Sì, le prime volte non ero felice. I vestiti, ad esempio, non avevo capito come fare. Si laceravano, si stracciavano e io non ero ricca. Non potevo comprarne di nuovi ogni volta e mia madre si arrabbiava. Sì, mia madre è stato il primo problema. Non poteva capire subito che era la mamma di una... Già è difficile essere la mamma di un... di una anche di più. Cosa fai con questi vestiti sfondati, le maniche stracciate? Ma dove vai? Ma qual è l'uomo che ti riduce così? Mamma, non posso dirtelo, sono caduta. Un incidente. Oh, mamma, lasciami stare. Ma non ci ha messo molto a capire. Beh, perché il sangue è sangue. Una lacrima, una sola, e poi le ha nascoste. E rammendava i vestiti, li aggiustava con pazienza e una volta ho visto che aveva lasciato sul fondo della gonna un'apertura apposta per la... Insomma, aveva capito tutto la mamma e non era facile da accettare. La prima volta, quando succede, non lo sapete dominare, avete paura, si grida, ci si dimena, si sbava. No, urlavo, non sono io quella! Mi sono vista allo specchio, ho avuto orrore, le mani diventano minacciose. Certo, anche una mano di donna piccola e gentile può premere un grilletto, ma delle mani così feroci, così inadatte a gesti teneri, poi si impara. E anche i denti, la prima volta non è facile accettarli. Poi si impara a fare tutto con maggiore calma, un po' di ironia, amara, diciamo pure con eleganza. Il naso, ad esempio, ci si abitua. È sempre un po' umido, ma l'olfatto aumenta, è un potere inebriante. E i denti, insomma, basta lavarli sempre e smussarli con una limetta e poi tenere la bocca chiusa. Si assume un'espressione seria, un po' altera, professorale. Il pelo cresce dappertutto, è ispido e pungente, non è certo bisone o cincillà, ma ha delle belle sfumature. E poi ho imparato che ci sono dei balsami per renderlo lucente. Si impara a pettinarlo, ha un suo fascino. Le orecchie, basta farsi crescere i capelli, coprono tutto. Ma il vero problema è la coda. Nei primi tempi è una nemica. Cammini e cinciampi. Sei in pubblico e ti accorgi che sporge da sotto il mantello. Se la tieni dietro sembra un fagotto informe. Se la tieni davanti sembra incinta. Allora si impara a tenerla lungo la gamba, o a sinistra o a destra. E lo si dice al sarto. Certo, esistono sartorie apposta per noi. No, non necessariamente sono licanti, sono come noi. A volte si fanno i fatti loro, gli piace fare un lavoro fuori dalla routine. Il mio dice: è una grande soddisfazione vestire una creatura come lei. Così dice. Una volta ci ha anche provato. Certo, c'è anche chi ti rifiuta. I medici, guai a farti visitare. Ma cosa sono questi graffi? E che strane pupille! E poi la gente. Basta che veda la nostra ombra, che senta il nostro respiro, ed ecco la polizia alle calcagne, le guardie giurate, le ronde, gli inservienti dei circhi. E i giornali, i loro titoli. Diventiamo yeti, pantere, alieni, albanesi quando va bene. E parte la caccia, come se fossimo delinquenti, solo perché ogni plenilunio... Io non so cosa pensate. Adesso ci rifila la storia della licantropa buona che non uccide nessuno. No, non nego la mia natura. Ma ho delle regole. Come voi uomini, mi mangio la parte del mondo che mi spetta. Voi non mangiate gli uccellini o i gatti, ma schiantate centinaia di esseri. È la regola. Io non sbrano bambini. È la prima regola del buon licantropo. E neanche gli anziani. E non perché la carne è coriacea, ma perché è troppo facile prenderli. E le donne no. Solidarietà femminile. Anche se certe ministre. E allora? Beh, io mangio manager sui 40 anni, preferibilmente filogovernativi. Prima di mangiarli, parlo un po' con loro. Cosa ne pensano di chi non produce, dei deboli, dei diversi, del loro zoo di animali inferiori. Appena esce la luna, divento agitata e mi dicono: ma cos'hai? C'hai le tue cose? Sei in quei giorni? Sì, dico, anzi, sono in quella notte. Oh, chissà cosa mi farai allora. Neanche lo immagini. Di cosa sanno? Di tacchino affumicato alcuni, altri di pollo, altri di pesce, ecco, tipo sushi. Non ci credete? Va bene, sono una bugiarda, vi ho mentito. Non saprete mai di cosa mi cibo, a meno che non ci incontriamo. Avete più paura di me che di un soldato armato di tutto punto? Vi fa specie perché sono una donna? Solo gli uomini possono fare i mannari? Io non obbedisco a nessuno. Io non uccido in nome di nessun dio. Io sono una ballerina. Voi non sapete come i nostri movimenti animaleschi, sghembi, rapidi, possono diventare una danza. Sento che sta per arrivare. La luna, la luna! Guarda che brivido nelle mie ossa. Lo so cosa volete sapere. La mia vita sentimentale. Beh, è complicata. La vostra è semplice? Animalesca? Beh, non vado ad annusare gli uomini da dietro, se è questo che volete sapere. Cerco l'amore, come tutti. Da Cenerentola a Godzilla. Certo, bisogna trovare uno che ami il genere. Una volta becco un punk satanista cattivo coi piercing. Ai primi peli che mi sono spuntati se l'è fatta sotto. La seconda volta era una bella notte di primavera. Nel bosco c'era odore di legna umida e resina, e tra i rami una luce, fuoco di camino. Veniva da una casetta coi nani di gesso in giardino e il dondolo sotto il pergolato di glicini. Oh, che stordimento i glicini per il mio naso. E lui è uscito, un agreste contadinello con gli occhi neri, con tutta la malinconia della sua giovinezza un po' solitaria. E io, timida, lo spiavo tra albero e albero. E lui deve avermi sentito, perché mi ha chiamato. Lupa! Sei una lupa! E sono scappata. Ho avuto timidezza, anzi paura. Paura di non essere abbastanza bella o brutta o sorprendente. E quella voce curiosa. Lupa! Lupa! Sono scappata. La sera dopo mi sono avvicinata e il dondolo cigolava forte e non c'erano solo i suoi piedi a sporgere, ma anche dei piedini di donna. E li ho visti insieme. I miei denti hanno fatto rumore di sciabole, le mie unghie sono uscite come pugnali e ho ululato e... Non potevo. La gelosia è per i lupi, la vendetta per gli uomini. L'ha sposata, è ingrassato e la picchia una volta alla settimana. E il mostro ero io. No, non è facile la mia vita. L'altra notte avevo calcolato male le fasi lunari. Ero in piazza tranquilla, una serata per pecore, una serata un po' pallosa. Sapete, quegli eventi che le amministrazioni regalano alle loro pecore votanti. Ed erano tutte un po' sbronze, si spintonavano e belavano. Sul palco c'era un comico pecora che diceva battutacce e giù risate pecorili. E dopo c'era un cantautore pecora nera. E io ero lì in mezzo a tutti. Sapeste che odori meravigliosi di ascelle e carne frolla. E la pecora nera grida: su, sorelle e fratelli, accendete l'accendino che siamo in diretta. Fatto? Benissimo, adesso dedichiamo un pensiero all'Africa. Fatto? Benissimo, e adesso mandate un messaggio col telefonino a una pecora che amate. Fatto? Benissimo, e adesso guardate la luna e cantate con me. Ho guardato anch'io, accidenti, era la luna piena. Permesso, permesso. Ho sentito la bufera nel sangue. Permesso, ho fretta, fate passare. E due o tre caproni mi dicevano: ma dove vai, sfigata? Ehi, bella gnocca, dove scappi? Scusate, non sto bene. E ho cominciato a tremare. Guardala là, è drogata. E mi spuntavano i peli, cazzo. Ma di che cosa sei fatta? E ho cercato di nascondermi, ma avevo i caproni dietro che mi seguivano e mi prendevano in giro perché camminavo storta e dicevano: ma dai, che ti facciamo stare bene. Ma cosa sei, bianca, nera? Ma sei una nera di merda! Dai che ti facciamo godere! Un altro dai che la riempiamo di botte! Mi sono voltata e ho detto: vi piace l'odore del sangue? Anche a me! Sono scoppate le pecore, io ho ululato e anche la sirena della polizia. Mi sono nascosta dietro a un cassonetto della spazzatura e che vergogna! E la luna sopra di me come una febbre. Verso la mattina un vecchio magro, spiritato, mi ha visto. Ha chiesto: le serve qualcosa? Sta male? Grazie, ho detto. Passerà. Sì, passerà, mi ha detto il vecchio. Anch'io sono come lei. Anche lei? Sì, da tanti anni. Ho preso tante botte, sono scappato tante volte. Ci farà il callo, bisogna abituarci. Ci si abitua. Era un vecchio con uno sguardo buono, le sopracciglia bianche. Viene il giorno, mi ha detto, che non si uccide più. Si lascia che siano gli altri a uccidere. Non capivo. Ora lo so. E così sto alla finestra e aspetto. Mi sento un po' sola chiusa qui. Ma un giorno magari mi metterò un mantello di raso nero e una rosa di seta e scarpe con la fibbia di forêt. Oui, je suis mademoiselle Licantrop. Volete camminare con me, signore, per le vie della Parigi notturna? È una notte di luna quasi piena e noi quasi ci ameremo. Nessun urlo, ululato o macchia di sangue per strada. Solo una vaga malinconia. La luna, è una severa maestra. Anche stasera non uccidiamo, balliamo. Domani, forse, qualcuno ci ucciderà. Avete ascoltato Madame Licantrop di Stefano Benni, tratto dalla raccolta Le Beatrici e letto da Jasmine Monti. Madame Licantrop era un testo intriso di violenza simbolica e fiabesca, ora invece abbiamo un testo in cui la violenza mostra il suo lato più brutale, greve, reale, e sarà questa volta un testo non scritto da un uomo, ma scritto da una donna. Paku, a te la parola. Sì, ora arriviamo a un punto delicato della puntata, perché il prossimo è un monologo molto celebre, scritto da Franca Rame nel 1975 per raccontare una violenza subita nel 1973. Ai tempi la Rame apriva dicendo che aveva preso ispirazione nella scrittura da una testimonianza anonima che aveva letto su un quotidiano femminile. Credo sia interessante sottolineare questo aspetto perché oggi come allora, nei casi di violenza sulle donne, si innesca una sorta di meccanismo paradossale per cui chi subisce prova molta più vergogna e sente su di sé molto più stigma sociale rispetto all'aggressore. Il discorso si può estendere anche in generale, cioè a volte sembra che la sfera maschile e quella femminile siano non comunicanti in un modo irrisolvibile, irrimediabile. E anche chi fra gli uomini ha la sensibilità di empatizzare con le nostre problematiche mantiene sempre una sorta di distacco, volontario o meno. Quindi, a portare questo monologo sarà anche l'unico attore uomo della puntata, perché siamo convinti che la presa di responsabilità passi per l'empatia, e un testo teatrale è sicuramente un modo meraviglioso di mettersi nei panni di qualcun altro. Vi ricordiamo che questo potrebbe essere un momento forte della puntata, che potrebbe urtare la sensibilità di chi ascolta. Adesso a voi Simone Di Scioscio con Lo stupro di Franca Rame. Di te. C'è una radio che suona. Solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che qualcuno canta. Sì, è una radio. Musica leggera. Amore, cielo, stelle, cuore, dolore, amore. Ho un ginocchio. Uno solo. Piantato nella schiena. Come se chi mi sta dietro tenesse l'altro poggiato per terra. Con le mani tiene le mie, forte, girandomene all'incontrario. La sinistra in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Non sto capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce, la parola, Dio, che confusione, come sono salita su questo camioncino. Ci sono venuta da sola, muovendo le gambe una dopo l'altra dietro alla loro spinta, o mi hanno caricata loro sollevandomi di peso. Non lo so. Il cuore che mi batte così forte contro le costole ad impedirmi di ragionare, e il dolore della mano sinistra sta diventando insopportabile, perché me ne torcono tanto. Io non tento nessun movimento, sono congelata. Ora, quello che mi sta dietro non tiene più il suo ginocchio contro la mia schiena. Si è messo comodo, si è seduto e mi tiene tra le sue gambe dal di dietro, come si faceva anni fa quando si toglievano le tonsille ai bambini. L'unica immagine che mi viene in mente è quella, perché mi stringe tanto. Io non mi muovo, non urlo, sono senza voce. Perché la musica, perché l'hanno abbassata? Forse è perché non grido. Oltre a quello che mi tiene, ce ne sono altri tre. Li guardo, non c'è luce, neanche spazio, forse è per quello che mi tengono semidistesa. Li sento calmi, sicurissimi. Si stanno accendendo una sigaretta. Ma cos'è? Fumano adesso? E perché mi tengono così? Sta per succedere qualche cosa, lo sento. Respiro fondo, due, tre volte. No, non mi snebbio. Non capisco, solo paura. Ho il cuore che mi esce. Ora uno si muove. Mi si avvicina. Un altro si siede sul lato sinistro. Il terzo si accuccia sulla mia destra. Vedo il rosso delle sigarette, stanno aspirando fortemente. Sono vicinissimi. Sta per succedere qualche cosa, lo sento. Il primo che si era mosso mi si mette in ginocchio tra le gambe. mele di varica. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi sta dietro, perché subito i suoi piedi si mettono sopra le mie gambe aperte per tenermele ferme. Io ho i pantaloni, perché mi aprono le gambe con sui pantaloni? Mi sento così a disagio, penso che è peggio come... È peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distrae qualcosa che subito non riesco a individuare. È un calore. Prima tenue, poi forte, sempre più forte, sul seno sinistro, una punta di bruciore. Le sigarette sopra il golf fino ad arrivare alla pelle. Io non so cosa dovrebbe fare una persona in queste condizioni. Io non riesco a fare niente, né gridare, né piangere. Mi sento proiettata fuori. Mi sento affacciata ad una finestra e costretta a guardare qualche cosa di orribile. Una sigaretta dietro l'altra. Una sigaretta dietro l'altra. Il puzzo della lana bruciata deve disturbarli. Con una lametta mi tagliano il golf davanti per il lungo. Mi tagliano il reggiseno. Mi tagliano la pelle in superficie. Nella perizia medica misureranno 21 centimetri. Quello che mi sta inginocchiato tra le gambe ora mi prende i sieni appieni e mani. Le sento gelide sulle bruciature. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando, lo sento. Si struscia contro la mia schiena. Ora tutti si danno da fare per spogliarmi. Una scarpa sola, una gamba sola. Adesso uno mi entra dentro, mi viene da vomitare. Calma, devo stare calma. Mi stacco, mi attacco ai rumori della città. Mi concentro sulle parole delle canzoni. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Non voglio capire niente, non so nessuna parola, non conosco più nessuna lingua, sono di pietra, una sigaretta dopo l'altra. Muoviti, puttana, devi farmi godere, è il turno del secondo. La lametta che è servita per tagliarmi il golf mi passa più volte sulla faccia, non sento se mi taglio o no. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Il sangue mi cola dalle guance fin sulle orecchie. È il turno del terzo. È orribile sentirti godere dentro delle bestie orrende. Sto morendo, riesco a dire, soffro di cuore, fatemi scendere. Ci credono? Non ci credono. Facciamola scendere? No? Sì. Vola un ceffone tra di loro, poi lentamente mi schiacciano una sigaretta qui, sul collo, fino a spegnerla. Ecco, io lì credo di essere finalmente svenuta. Sento che mi stanno rivestendo, io servo a poco. Quello che mi teneva alle spalle mi riveste con movimenti precisi, come fossi un bambino. Si lamenta perché è l'unico che non abbia fatto che non si sia aperto i pantaloni. Non sa come metterla con il mio golf tagliato. Mi infila i due lembi nei pantaloni. Alza la cerniera, mi mette la giacca, spacca i miei occhiali. Il camioncino ferma giusto il tempo per farmi scendere e se ne va. Mi tengo la giacca chiusa sui seni nudi, è quasi scuro. Dove sono? Piante, verde, prati. Sono al parco. Mi sento male. Nel senso che mi sento svenire, no? Non solo per il dolore fisico, ma per lo schifo, per la rabbia, per l'umiliazione, per le mille sputate che mi sono presa nel cervello, per lo sperma che mi sento uscire. Appoggio la testa ad un albero. Mi fanno male anche i capelli. Certo, mi ritiravano per tenermi ferma la testa. Mi passo la mano sulla faccia. È sporca di sangue. Alzo il bavero dalla giacca e cammino. Non so dove sbattere, non so dove andare, cammino, non so per quanto tempo. Poi, senza accorgermi, mi trovo davanti al palazzo della questura. Sto appoggiato al muro della casa di fronte. Guardo quel portone. Vedo la gente che va, che viene. Poliziotti in borghese, poliziotti in divisa. Penso a quello che dovrei affrontare se entrassi. Penso alle loro domande. Penso alle loro facce, ai loro mezzi sorrisi. Penso e ci ripenso. Poi mi decido. Torno a casa. Li denuncerò domani. Grazie Simone, ti mandiamo un bacione e adesso andiamo in chiusura. Abbiamo visto il dolore e la violenza nelle loro forme più brutali, più violente. Però il dolore e la violenza possono avere anche forme più silenziose, più fredde e più nascoste. Ed è di questo che parlerà il prossimo monologo, l'ultimo della puntata, ancora tratto dalle Beatrici di Stefano Benni. Questa è Jasmine Monti che legge Attesa. Che ore sono? Non voglio saperlo. Le ore in cui si aspetta non hanno la durata del tempo quotidiano. La loro misura non è quella di un pendolo che oscilla regolare, ma quella di un cuore che batte a spasmi e inciampi. Il tempo dell'attesa ti circonda, ti avvolge interminabile. È come navigare in un mare di cui non si vede la fine. Chi sto aspettando? Che importanza ha? Un amante? Un marito? Un figlio? Una figlia? O un medico con un verdetto? Un assassino col coltello? Forse uno sconosciuto? L'importante è che io ora vivo in questa parte dell'universo, nel pianeta dell'attesa, separato e diverso dal pianeta di chi non aspetta nulla e nessuno. E la mia ansia, il mio cuore, i miei pensieri impazziti non si calmeranno finché non sentiranno una voce in strada e i passi salire le scale e una mano aprire la porta e lo vedrò. Sul suo volto un sorriso o un faticoso ghigno di scampato, ferito ma vivo, o iroso e indifferente, ma potrò andargli incontro e avere cura di lui e avere pace. No, non è vero. Non esiste pace per noi. Esiste un tempo sospeso, talvolta felice, tra due attese. Tutti aspettano nella vita, è vero. Ma ci sono persone, soprattutto noi donne, che non fanno altro che aspettare, ogni ora e ogni giorno. Perché accettare la responsabilità, l'amore, l'affetto, l'attenzione, la solidarietà vuol dire fare parte di questa schiera dannata. Quelle e quelli che stanno alla finestra nella notte, il ridicolo dolce esercito di quelli che aspettano. Aspettiamo, senza riuscire a pensare ad altro, spesso senza cercare rifugio in un libro o in una musica. Ogni squillo di telefono ci fa tremare il cuore, ogni voce vicina ci inquieta ed è un nuovo dolore, non è questa la voce, non è questo il volto che aspettavamo. E odiamo chi non è colui o colei che aspettavamo. C'è follia in questo? Sì, c'è spesso. Si può aspettare qualcuno che ha bisogno di noi o che noi crediamo abbia bisogno di noi oppure di cui in fondo abbiamo bisogno. Noi crediamo. Sì, la nostra è una fede che conosce una sola preghiera, un solo tocco di campana. Vieni, ritorna. Quante attese, quante. L'attesa di un segno dentro di me, di qualcosa che stava per nascere, e poi aspettarlo fuori da scuola, riconoscere il suo viso tra tanti. Aspettare che il calore della febbre lasciasse la sua fronte, aspettarlo di notte quando faceva tardi, vederlo arrivare stravolto, arrabbiato, confuso, aspettare fuori dalla sua camera un segno di quiete, aspettare nella corsia di un ospedale, cercando di capire dai volti di tutti cosa stava succedendo, aspettare una telefonata da un paese lontano o vicino, alzarsi in piedi, camminare, cercare di dormire, gridare, piangere, aspettando quei passi. E ogni passo sembrava il passo atteso, come ora. Certo, qualcuno ha aspettato anche noi, e forse non ce ne siamo mai accorti. Mentre credevamo di essere gli unici abitanti del mondo dell'attesa, c'erano altri che attendevano noi. Un genitore, un amante, un figlio che ci aspettava. E noi non conosceremo mai il dolore del suo tempo, i suoi pensieri, ma possiamo immaginarli, erano uguali ai nostri. Ora che aspetto, Ringrazio tutti voi che mi avete aspettato con affetto, con ansia. Vi chiedo perdono perché non me ne sono accorta. Perdonatemi. E quanti ritorni, pieni di frasi assurde, crudeli. Dove sei stato? Dove sei stata? Perché non hai telefonato? Cosa ti è successo? Perché così tardi? Con chi eri? Chi di voi non ha detto o ascoltato queste solite frasi? Eppure le ripeteremo ancora. Altri le ripeteranno. È destino. Proprio come è destino restare qui, svegli, col cuore che batte, pieni di neri pensieri e di nostalgia. E niente può rassicurarci, solo il rumore di quei passi che si avvicinano, la sua voce, il suo volto, un attimo luminoso di gioia in fondo a un nero tempo che morde l'anima. A volte penso, è tempo perso questo aspettare, o è il tempo più necessario e prezioso, il prezzo che dobbiamo pagare all'affetto, alla cura, alla fratellanza. E qualcuno di voi forse ha conosciuto il tempo peggiore dell'attesa, quello che si mescola alla paura, quando si spara in strada, quando c'è il passo delle ronde, quando stivali di soldati battono alla porta. Chi potrà mai dimenticare quel tempo? Ma anche così, in questa notte normale, quando non vorresti, ma piangi, non vorresti, ma un pensiero doloroso ti assale, per lui, per lei che aspetti. Perché? Perché non senti la mia attesa? In quale guerra, in quale droga, in quale errore, in quale amore ti sei perso? Sospesi nel nostro desiderio egoista di spegnere il nostro dolore. Anche se lui, lei, è felice dove è ora, è felice mentre infelici lo aspettiamo e sarà felice di ritrovarci, avrà bisogno di una parola, di un bicchiere d'acqua, oppure ci insulterà e scivolerà in silenzio lontano da noi. Cosa fai ancora in piedi? Aspettavi me? No, non riuscivo a dormire, lavoravo, stavo pensando. E poi il cuore si placa, fino a domani. Forse. I suoi passi? No, non è lui. Anche di queste torture è fatta l'attesa. Anche di segni che ti rendono folle e ansioso, di ossessioni e crudele desiderio di togliere libertà all'altro, di inchiodarlo a un tempo di morti dove nessuno attende, nessuno arriva. Ma chi aspetta davvero è vivo, aspetta sempre con amore. Con un eccessivo, sprecato, indicibile, ridicolo amore. Aspetterà sempre. E gli sembrerà di non aver fatto altro giorno dopo giorno. Che i momenti in cui non aspetta, la quotidiana normalità, non siano che un istante sospeso nel grande tempo dell'attesa. Una lampada in una notte tempestosa, interminabile, come questa. E forse i suoi passi sono i suoi passi. Ok, grazie per essere arrivati fin qui. Un mega ringraziamento a tutti gli attori che hanno partecipato alla puntata. Grazie Aurora Spreafico, grazie Jasmine Monti, ti amiamo Jazz, grazie Simone Di Scioscio. Questo è DIY Drama, io sono Sara Paku. E io sono Tosco. Siamo su Radio Virus. Se volete contattarci per darci feedback, se volete leggere anche voi, se avete dei testi che volete vengano letti, scriveteci. Le nostre mail sono sarapakupaku@gmail.com e francesco.toscani96@gmail.com. E adesso in chiusura mettiamo Noi bambine non abbiamo scelta dei Baustelle. Telefona, promette che mi rapirà, mi porterà al cinema, è la mia droga, non mi può far male, non abbiamo altro, non abbiamo scelta noi bambine. fresca d'acqua sporca di motel che mare c'è. Sarà di noi, mi scrive sulla bocca le parole che non posso dire quando piango in questo mondo stupido. Che male c'è.